È proprio impossibile avere immagini mentali diverse da quelle della nostra cultura. Uno che ha sempre vissuto all'equatore non può farci un'idea reale di come sia il Polo Nord, come è del resto, chi è sempre vissuto al Polo Nord non può comprendere la siccità vigente nell'equatore. Noi pensiamo e ragioniamo in base al nostro vissuto e alla nostra cultura. Così, quando leggiamo nella Bibbia parole come debole o forte, visualizziamo il forte in colui che è capace di sollevare 500 kg, mentre il debole in colui che non è neppure in grado di sollevare un bambino di pochi anni. Anche se questi aspetti sono comuni ovunque e all'umanità intera, nella Bibbia, tali parole assumono dei significati religiosi molto diversi, quindi se vogliamo comprendere ciò che leggiamo, siamo costretti a fare un percorso per ricercarne il significato, dato che vi sono nominate centinaia di volte. Queste parole sono impiegate dall'Apostolo Paolo nella seconda lettera indirizzata ai credenti della città di Corinto, dove egli, suo malgrado, rilascia una testimonianza personale. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso, e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo, ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte». 2 Corinzi 12:1-10. La testimonianza di Paolo è stata veramente unica, come del resto è stata veramente preziosa. La risposta di Dio, in merito al suo problema della scheggia, una botta e risposta molto preziosa, per qualsiasi credente che vuole vivere il cristianesimo a livelli alti. Sì, perché si può vivere la propria fede nel tirare avanti mentre si può meno e si dovrebbe meno vivere in abbondanza. Come Paolo, anche tu puoi avere una scheggia, cioè avere nella tua vita una ferita e un dolore che gli altri non vedono, e che ti affligge continuamente. Forse non puoi toglierla perché significherebbe rimuovere parte della tua vita o della tua chiamata. Perciò, quando ti sei rivolto a Dio per esserne liberato, la risposta è stata alquanto strana per te. La mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Oppure, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Con questa rivelazione così d'impatto, sulle prime rimani confuso, ma poi ti riprendi e ti rendi conto che, in effetti è vero, finché siamo forti, siamo in grado di essere autonomi e l'aiuto a qualsiasi soccorso non servono, ma quando si è deboli e incapaci, anche ogni piccolo aiuto e soccorso è benvenuto. Così è nella vita umana, come pure nel campo spirituale. Dopo che Paolo ha fatto un'esperienza unica, la sofferenza e la limitatezza erano gli unici mezzi a tenerlo umile. Se così è stato per lui, quanto più per te e per me saranno esse necessarie per tenere regolato il nostro orgoglio. Proprio perché Paolo aveva compreso questo meccanismo nella sua vita, con una certa incoscienza, meno diremo, noi meno ha dichiarato: «Perciò io trovo piacere nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte». La sofferenza e le debolezze non piacciono a nessuno. Se a qualcuno piacessero, non sarebbe normale. Perciò, per sostenere di trovare piacere in ciò che è piacevole non è di certo, bisogna proprio avere un motivo molto forte. Nessuno mi dica che scalare una montagna sia una passeggiata, o come una bella mangiata con la propria amata, perché molti ci hanno rimesso le mani e i piedi, altri ancora la vita. Eppure il desiderio di scalare una montagna, la vittoria psicologica, la bellezza dei monti, l'esperienza stessa, sono talmente forti da far superare tutti i disagi e i pericoli. Così è della fede cristiana. È vero che vivere coerentemente la propria fede significa soffrire in vari modi e in varie maniere, ma è tanto bello e appagante il risultato che si è in grado di soffrire e persino di morire pur di compiere la volontà di Cristo. Questo è il motivo molto forte per amare ciò che fa soffrire, cioè trovarvi piacere. Paolo ha elencato alcune di queste sofferenze, e prenderle in esame è molto importante, perché si comprenderà, meno se ancora non lo si è fatto, meno in che cosa consista la forza di Dio, che si esprime perfettamente nella debolezza umana. Quella forza di Dio che ha reso uomini timidi, capaci di proclamare il Vangelo di Cristo, davanti alle autorità superiori, sia civili sia religiose. Quella forza che ha trasformato omosessuali, prostitute, mariti violenti, uomini indomabili in persone che hanno mutato la società mediante opere sociali a favore dei più deboli e miserabili. Ogni cristiano che viva il cristianesimo ai livelli alti può testimoniare di essere lui stesso il primo spettatore della potenza di Dio, sorpreso e rapito da ciò che Dio può fare. Solo a Cristo Gesù spetta la gloria. Paolo e Sechimo a Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento avvia delle debolezze, un aspetto, questo, che la nostra società non aiuta certo a comprendere. Quando sei nella debolezza, sei scartato dalla società, che vuole uomini e donne virili, capaci, che sappiano, con estrema energia, lasciare una impronta ben marcata nel tempo. Anche il credente lascia una certa orma nella storia, ma rimane un'orma né compresa né accettata. Tante volte. Ci sono cristiani che hanno dato vita a orfanotrofi e ospedali, e questo viene anche accettato socialmente. Ma coloro che hanno dato avvio a chiese, a scuole bibliche, a missioni per evangelizzare, sono ritenuti eccentrici e anomali. La società apprezza chi si priva di tante comodità per ottenere un successo umano e temporale, ma non può comprendere chi sminuisce il proprio lavoro secolare per valorizzare ciò che è eterno. In questo per il mondo sei debole, ma questa è la forza del cristiano. Paolo S.P. Bois, Nuovo Testamento, avvoa delle ingiurie, non quelle causate da un comportamento scorretto, ma dalla fede e predicazione riguardo a Cristo. Bisogna dirlo. Quando si è insultati e offesi, non ci si sente forti. Quando sei disprezzato nel parlare e nell'agire, non hai tanta voglia di proseguire. Perciò, se continui a vivere per Cristo, a compiere il bene, a benedire coloro che ti maledicono, questa forza non fa parte della tua natura umana, ma è la forza di Dio. Quando comprendi per rivelazione da parte di Dio una verità e per questa sei schernito, non ha nessuna voglia di continuare a propagarla. Perché il tuo primo istinto è quello di andare d'accordo con tutti. Si propongono le proprie opinioni. È vero, ma è anche vero che quando esse ottengono una forte opposizione, non vale la pena continuare. Non così è nel campo di Dio. Paolo è stato più volte disprezzato, deriso, a causa del Vangelo, ma lui attingeva la sua forza in Dio proprio in quel momento. Non era lui a vivere, ma Cristo viveva in lui. Paolo S.T.V.A. Nuovo Testamento avea delle necessità. Questa è una di quelle debolezze che il mondo non ti permette. Tu devi avere quell'automobile moderna, quel televisore nuovo, quel telefonino appena uscito. Altrimenti devi dipendere dagli altri. E questo non è bello. Paolo non aveva i mezzi di allora, non aveva dove posare il capo, non aveva abbondanza di cibo e di vestiario. E questo tutto a causa del Vangelo. È umiliante avere sempre bisogno degli altri. La società di oggi non ti permette questa povertà. Ma avere bisogno degli altri ti mette in condizione di umiliazione. Devi stare ai piedi di chi dona. Nel dare riconosci una certa potenza in te, ti senti forte, ti vedi in uno scalino più alto. Dobbiamo riconoscerlo molto onestamente. Non piace a nessuno ricevere in modo umiliante. Eppure, quella situazione ti costringe a renderti conto della tua debolezza, ma anche a sperimentare che tutto proviene da Dio. Se vai avanti con determinazione non è per le situazioni favorevoli, ma perché in te agisce l'ostinata volontà di piacere a Cristo. Questa è la tua forza, la vera forza. Paolo S. Pinto a Nuovo Testamento V.A. delle persecuzioni. Questo lo rendeva ancora più strano agli occhi del prossimo. Si vantava, non perché subiva le conseguenze di ingerenze altrui o perché nutriva risentimenti, ma perché le persecuzioni erano il risultato della sua fedeltà a Cristo. È un vanto soffrire per Cristo, perché è la dimostrazione che la fede non è un concetto filosofico ma una realtà. Come è stato ben detto, non vale la pena di credere a qualcosa per la quale non sei pronto a soffrire. Se io credo che sia importante vincere una gara, non vale la pena che lo dica, se non sono disposto a rifiutare ciò che limita la mia vincita. Le parole hanno valore quando sono dimostrate nella pratica. Come dire a una persona che la ami quando abitualmente la ignori completamente? Dopo mezzo secolo di vita cristiana, sono arrivato alla conclusione che per vivere pienamente in Cristo si deve soffrire anche nell'ambito dei credenti. Il cristiano che vuole essere pio o devoto avrà sempre per nemici coloro che vivono formalmente la vita cristiana. Infatti l'Apostolo Paolo non ha sofferto solo da parte dei pagani, ma anche dei credenti, tra i quali anche alcuni, che lui stesso aveva condotti a Cristo. Se li ha amati, non è stato per la sua forza, ma per la sua debolezza di non essere stato ricambiato nell'amore. Paolo S.I.B. a Nuovo Testamento a via delle avversità, perché quando si predica un messaggio totalmente contrario all'opinione pubblica, le avversità non possono mancare. Come se questo non bastasse, le sue avversità provenivano anche dai credenti. Egli predica un Vangelo non condiviso da tutti, cosa che mi induce a pensare a quale Vangelo predichiamo oggi, quando invece esso è accettato da tutti. Mi spiego. I teologi, se vogliono fare carriera, devono stare nel coro della teologia in voga. Il predicatore, se vuole essere rispettato, deve predicare ciò che l'uditorio si aspetta di sentire. Il semplice credente deve parlare in modo da non creare grossi problemi. In questo modo non ci sono avversità, ma applausi e consenso. Tutto si svolge senza grandi traumi e tutti possiamo morire sereni nei nostri letti. Davanti alla confessione di Paolo di essere stato abbandonato da tutti, all'infuori di Luca mi chiedo chi sia colui avere un simile onore, perché un simile onore per Dio, ma disonore per gli uomini, dà una forza inspiegabile. Più opposizioni e solitudine incontri, più possiedi una forza che non ti appartiene. Ecco che allora quando si è deboli in questo modo a causa di Cristo si è forti perché si è assaliti dal desiderio di abbandonare tutto e chiedersi chi me lo fa fare. Ma quando si pensa a Cristo, che è morto per te e per me per salvarti per l'eternità da una eterna condanna, allora ogni ragionamento muore sul nascere e ci si avvia verso il traguardo meraviglioso guardando i premi che Gesù darà a coloro che lo amano. Vieni, Signore Gesù. 2013 0213 Ellero.